un fiume non potrà. Oh no, no, lasciare il mare suo e non tornare mai. Io non ti perderò. Oh no, no, perciò non vado via, ma prego ancora te. Pietà, pietà, pietà per chi ti ama. Pietà, pietà, pietà per chi ha sbagliato. Il male fatto a te non l'ho voluto. Pietà, pietà, pietà per questo amore. Fiducia più non hai. Oh no, no, ma il bene che mi vuoi non è finito mai. Pietà, pietà, pietà per chi ti ama. Pietà, pietà, pietà per chi ha sbagliato. Il male fatto a te non l'ho voluto. Pietà, pietà, pietà per questo amore. Pietà, pietà, pietà per chi ti ama. Pietà, pietà, pietà per chi ha sbagliato. Pietà.